Gigi D'Agostino. We'll be right back. capodanno ballato, passetto ritmato, Italia, Rimini, discoteca altro mondo. Questa sera, sabato 31 dicembre 2005, Gigi D'Agostino, Luca Nois, Provenzano DJ, Roberto Molinaro, capodanno ballato, passetto ritmato.

la musica, mi diverto con la musica, gioco, gioco, con la musica, gioco, gioco, con la musica, gioco, eternamente, eternamente, il cammino di Gigi D'Agostino. Numero 8. Luna Park, Federico Romanti. Show di Gigi D'Agostino dal vivo. Musica e ritmi Gigi D'Agostino e Luca Nois. Giovedì sera 5 gennaio 2006, ore 22:30. Discoteca Shock, Via Belloni 3, località Paesana, Cuneo. Venerdì sera, 6 gennaio 2006, ore 22:30, discoteca Vanilla, via Brigata Salerno 4 Rosso, località Genova Sturla, Genova.